Luca, io ne approfitto aspettando che arrivino altre persone che sono in... li stiamo aspettando, sappiamo che arriveranno ancora. E vi saluto, vi ringrazio di essere qui con noi, una buonasera alle signore e signori. Questa biblioteca ha come scopo quello di creare continuamente delle occasioni di incontro, di confronto, ascoltando relatrici e relatori che ci aprano dei nuovi spunti di riflessione, ci diano delle nuove così, occasioni di, anche di lettura. E questa sera abbiamo con noi due ospiti veramente eccezionali che sono il professor Alessandro Costazza e l'avvocato Arnaldo Lone. Il professor Alessandro Costazza ha insegnato, è stato docente all'Università di Trento, poi per 22 anni a Milano, ha insegnato storia della letteratura tedesca e si è occupato sia di letteratura locale, vero? Ma poi anche se ha approfondito numerosi temi, e uno di questi è poi, diciamo, quello che ha ispirato anche un filone che ha ispirato questo libro, un libro veramente interessante. Abbiamo chiesto all'avvocato Arnaldo Lone di accompagnarci in questa presentazione, conoscendo la sua attività professionale, come ha investito energie, sapere nella difesa anche della città in un'occasione ben precisa tanti anni fa nel processo a Misha Seifert, e quindi lo ringraziamo anche per la sua disponibilità. Ne approfitto ancora un attimo prima di entrare nel merito delle iniziative della presentazione del libro I perpetratori della Shoah nella letteratura, nel cinema e in altri media, di dirvi che avremo altre due serate sempre dedicate alla storia, che saranno quella di mercoledì alle 17:30, Scorci di un confine, la quale in un secolo di letteratura italiana, e poi la settimana successiva, dopo la Pasqua, 17 aprile alle 17:30, Storia di un ragazzo ebreo, Diario 43-45 con Federico Steiner, Paolo Campostrini e Annika Schluterbacher. Questi i nostri appuntamenti, lascio la parola ai nostri ospiti che ringrazio ancora e vi auguro una piacevole serata con l'invito di tornare a trovarci, di stare con noi. Grazie. È già aperto, dovrebbero sentirti proprio. Questo libro è un libro importante. È un libro importante perché ci dà un contributo di conoscenza, di sapere sull'Olocausto. E questo contributo naturalmente arricchisce la memoria. È un contributo che stimola, che arricchisce la memoria. Ricordo che Primo Levi aveva scritto: comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Noi dobbiamo cercare di sapere per la nostra mente, per il nostro spirito, il più possibile dell'Olocausto. E questo libro poi tocca un settore anche abbastanza particolare, perché i libri sull'Olocausto, sulla Shoah, sono molti, si è studiato, si è scritto molto. Questo è un settore particolare perché, lo dice il titolo, I perpetratori della Shoah nella letteratura, nel cinema e negli altri media. Ma poi l'importanza di questo libro, che arricchisce la memoria, ci dice anche che è uno strumento di difesa. Noi abbiamo bisogno di difesa. Le idee, le ideologie nazista e fascista hanno tentato una ripresa, stanno tentando una ripresa. Si cerca di ricostruire gli spettri del mondo del passato, si vogliono far rivivere. C'è il tentativo addirittura di riabilitare in qualche modo Hitler e Mussolini. E non è un tentativo da poco, è un tentativo diffuso. Io sono rimasto sconvolto quando ho visto in alcune trasmissioni televisive gruppi di studenti che facevano il saluto fascista. Fare il saluto fascista, cioè il saluto romano che era il saluto fascista, significa voler celebrare, significa voler ricordare, e bisogna combattere. Io sono stato in oltre 100, in più di 100 scuole, più prima del Covid, e ho parlato ai ragazzi del Lager di Bolzano e del carnefice del Lager, Seifert, che ha ammazzato moltissime persone, è stato condannato all'ergastolo per 11 omicidi perché il processo è stato fatto nel 2000, quindi la bellezza di 55 anni dopo raccogliere le prove è stato un lavoro difficilissimo. E qui c'è il generale Elia, che è quello che veramente è riuscito a raccogliere degli elementi d'accusa, ed è quello che ci ha consentito poi di fare quel famoso processo a cui io ho partecipato come difensore di parte civile del comune di Bolzano e della città di Bolzano. La difesa, noi ci dobbiamo difendere la memoria di quelli che sono caduti e la memoria dei sopravvissuti. È un compito non facile, ma c'è la volontà, ripeto, di far riemergere queste ideologie nefaste, quella fascista e quella nazista. E quindi la lotta è una lotta che deve essere continua, progressiva e imponente. Questo libro per questo è importante, come le pubblicazioni. E c'è anche un ritorno di pubblicazioni, dico al professor Costazza, in questo momento c'è anche un certo risveglio che nasce anche naturalmente come reazione al ritorno delle idee nefaste del nazifascismo. Ma sono opere come questa che ci danno questo contributo, ci danno la consapevolezza, questo è il valore che ci viene, la consapevolezza. Noi dobbiamo sapere qual è stato il nostro passato e perché quel passato non deve più ritornare. Sono due brevi riflessioni che ho voluto fare così, introduttivamente. E adesso vorrei chiedere all'autore, chi ha curato questo libro e ha scritto anche importanti capitoli nel libro, l'obiettivo, lo scopo, come è nata l'idea. Vorrei che il professor Costazza ci raccontasse qualcosa. Ecco, vediamo se funziona. Sì. Grazie caro Arnaldo. Cerco di presentare brevemente il libro, poi vorrei allargare così il discorso anche più in generale ai perpetratori, al tema appunto di questo libro, e magari ne discutiamo poi anche assieme, naturalmente anche con il pubblico. Qui vedete la copertina di questo libro. In copertina compaiono queste figure, che sono i partecipanti alla conferenza del Wannsee, che ha avuto luogo il 20 gennaio del 1942. Ed è importante, vedete qui vi ho messo solo anche i nomi, non li leggo tutti, possiamo riconoscere più facilmente soprattutto questo, che è Eichmann, che era segretario e ha scritto appunto la fine, un riassunto di tutta l'incontro, e questo è Heinrich Heydrich, che è quello che ha organizzato questo incontro, e poco dopo è stato vittima di un attentato a Praga ed è morto. Era forse all'epoca il personaggio dopo Hitler più importante del nazionalsocialismo, più importante anche di Himmler, capo della ST, dello Sicherheitsdienst. Ma a parte questo è stata un po' l'idea che mi ha spinto ad affrontare questo tema. Il 20 gennaio del 2022 erano esattamente 80 anni da questa conferenza, e questo anniversario mi ha spinto a portare l'attenzione soprattutto sui carnefici, sui perpetratori. In questa conferenza si sono date le linee generali della soluzione finale. In realtà le uccisioni degli ebrei, sia in alcuni campi di concentramento che poi anche da parte delle Einsatzgruppen, di cui parlerò forse più tardi, erano già iniziati, però qui sono state definite le linee generali ed è uno anche dei pochi documenti espliciti in cui si parla appunto della volontà di sterminare tutto il popolo ebraico. La famosa soluzione finale è stata definita nelle sue caratteristiche proprio durante questa breve, tra l'altro, breve incontro che è avvenuto nella villa sul Wannsee, che si può visitare, che contiene delle mostre, una mostra permanente, ed è molto interessante visitarla. Ecco, adesso vi mostro solo così, non so se si riesca, se forse si riesce anche a leggere, proprio di sfuggita un pochino come è organizzato il libro, qual è il contenuto, non vado a indagare i singoli saggi. Vedete, è suddiviso in quattro sezioni. Nella prima sezione ci sono le immagini di Hitler, l'apertura è data da un saggio molto vasto, molto approfondito, di un grande storico, un grande specialista del nazionalsocialismo, che è Gustavo Corni, e della storia della Germania, non solo del nazionalsocialismo, che analizza veramente un numero incredibile di biografie di Hitler e degli studi storici in generale su Hitler, perché anche gli studi storici sono in fondo delle narrazioni e quindi variano non solo in seguito al maggior numero di conoscenze che si acquisiscono sul nazionalsocialismo e su Hitler, ma anche in dipendenza dal contesto storico e culturale. Ecco, qui mi sono già dilungato troppo. Dopodiché seguo un saggio invece sulle parodie di Hitler, che sono molto presenti in realtà già prima che Hitler salisse al potere. Tutti noi penso conosciamo il grande dittatore di Chaplin, che è del 1940, oppure l'Arturo Uy di Brecht, che è del 41, forse il contorno del 41, eccetera, e che sono diventate ancora più numerose con internet negli ultimi anni. Ormai la rete è piena di parodie di Hitler su Twitter e su altre piattaforme. E segue con un'altra saggio sempre di una parodia di Hitler. Dopodiché seguono le auto ed etero rappresentazioni dei criminali nazisti o dei perpetratori, e qui vediamo un saggio sulle fotografie che i perpetratori hanno fatto di se stessi, un mio contributo invece sulle rappresentazioni in letteratura e al cinema di Rudolf Höss, il comandante di Auschwitz, colui che aveva praticamente fondato, inventato e sviluppato a Auschwitz le camere a gas e anche l'utilizzo del Zyklon B come gas di sterminio, e poi un altro sul Jürgen Straub, che è stato il liquidatore del ghetto di Varsavia. La terza, adesso non riporto più tutti i singoli saggi, la terza sezione riguarda discorsi pubblici, tribunali e teatro, e qui ricordo solo il terzo saggio sulle rappresentazioni dei criminali nazisti all'interno delle aule di tribunale, perché anche la legislazione, i cambiamenti che ci sono stati dal 45 in poi e fino a pochi anni fa nella legislazione permette alle volte di incriminare persone che prima non erano incriminabili e dà una rappresentazione differente dei criminali. Ecco, di questa Veronica Probe avete anche lì un libro appena uscito per la terza, su uno dei casi che tratta anche in questo saggio. L'ultima sezione invece riguarda romanzi storici, ucronie e film horror. Ecco, qui alle volte i personaggi, diciamo i criminali nazisti, non sono sempre il personaggio centrale di questi racconti, di questi romanzi, spesso anche molto voluminosi, ma comunque giocano un ruolo importante. Ed è, secondo me, appunto molto importante anche ai giorni nostri, in cui queste rappresentazioni dei criminali nazisti vengono prodotte sempre più frequentemente, sia nei cinema che nei film, scusate, al cinema, che in romanzi, a teatro, eccetera. Munirsi anche degli strumenti critici per riuscire a capire qual è la prospettiva dalla quale vengono rappresentati questi criminali. Qui dico, e con questo concludo questa breve prima parte della mia presentazione, l'atteggiamento critico che dobbiamo avere nei confronti delle testimonianze, delle autobiografie dei criminali nazisti è quella che definirei una ermeneutica del sospetto. Cioè, mentre le vittime si sforzano di dire l'indicibile e alle volte non vi riescono perché hanno subito dei traumi troppo grandi per poterli raccontare, o vi riescono solo in età avanzata, alle volte anche confondendo alcuni dati, e per cui noi dobbiamo integrare, se vogliamo, queste testimonianze. Ecco, i perpetratori, al contrario, cercano, si sforzano di tacere l'indicibile, e quindi naturalmente anche quando dicono o sembrano dire la verità, in realtà nascondono sempre o rivelano sempre una strategia di autogiustificazione. È quello che io ho messo in mostra non tanto in questo saggio su Höss quanto su un altro saggio pubblicato precedentemente, in cui ho diciamo così analizzato, cercato di mettere in luce le strategie retoriche messe in atto da Höss nella sua famosa autobiografia intitolata Commandant in Auschwitz, scritta da lui mentre era in prigione, sapeva che sarebbe stato condannato e poi impiccato proprio ad Auschwitz. E questa autobiografia è una delle testimonianze maggiori dell'esistenza e del funzionamento delle camere a gas, e proprio per questo forse si è dato anche troppo credito alla verità raccontata in questa autobiografia. Ci sono degli aspetti sicuramente veritieri, importanti, delle testimonianze importanti, ma vi sono anche molte menzogne. Primo Levi, nella prefazione a un'edizione italiana, diceva che erano come mosche sul latte e che quindi era facile riconoscerle. A mio avviso anche Levi non ha riconosciuto, diciamo, in tutta la loro portata queste strategie e queste menzogne. Ecco, per cui in tutte le testimonianze dei carnefici bisogna mettere in atto questa appunto ermeneutica, questa strategia interpretativa del sospetto. Adesso vi farei vedere solamente, così tanto per fare una pausa prima, piccolo filmato di un docufilm molto, secondo me, fatto molto bene, ad opera di Stefan Ruzovitsky, che è l'autore di un film di Felscher, I Falsari, che ha vinto il premio Nobel, scusate, il premio Nobel, buonanotte, che ha vinto l'Oscar, gli davo già il nome, che ha vinto l'Oscar, per cui un autore importante, famoso, che si è occupato, appunto, ha cercato di, in questo film, di capire le ragioni che hanno spinto uomini qualunque, padri di famiglia, studenti, avvocati, giudici, a partecipare a questo sterminio di massa, perché ricordiamoci che senza l'ausilio di centinaia di migliaia di persone in Germania l'olocausto non avrebbe mai potuto aver luogo. In Germania, non solo in Germania naturalmente, anche in Polonia, anche in Ucraina, anche nei paesi occupati. Adesso vediamo, questo è solo il trailer di questo filmato, se adesso riesco ad aprirlo, e che a mio avviso è significativo. Vediamo un po' dove ce l'ho, ce l'avevo sul, se non sbaglio, no, l'avevo già preparato. Allora, questo lo possiamo chiudere. Appunto, è solo in tedesco, però io ho aggiunto dei sottotitoli in italiano, visto che non lo trovo, allora riparto da qua. Sì, ecco, si può. Auch ohne mich ihrem Schicksal nicht selten ein wenig. Ich war innerlich nicht damit einverstanden. Ich muss eigentlich sagen, dass wir uns damals überhaupt keine Überlegungen gemacht haben. Questo film, che è un docufilm, quindi avete visto, con delle scene anche ricostruite, in realtà vi partecipano anche degli specialisti con delle interviste, e se volete ve ne faccio vedere, se volete o non volete, ve li faccio vedere comunque. Partecipano degli specialisti, vediamo se riesco a metterlo adesso in grande, sì, così dovrebbe funzionare. Ecco qui, non so se riuscite forse anche a leggere. Uno di questi è Christopher Browning, importante. Sono troppo piccoli, vuole. Sì, se no posso metterlo anche come PDF. Ok, allora vado, va bene, grazie. D'accordo, così potete. Ecco, rimango soprattutto a questo Christopher Browning, che è un autore importantissimo, che negli anni 90 ha, per così dire, iniziato proprio, inaugurato queste ricerche degli storici sui perpetratori, con un libro dedicato al battaglione 110, era un ersatz, no, un. Scusate, Einsatzgruppe, un gruppo d'azione, erano composti da SS, elementi della Wehrmacht e anche della polizia e del Sicherheitsdienst, e che seguivano, diciamo, in Russia l'avanzamento dell'esercito facendo piazza pulita degli ebrei. Questo è stato quello che è stato chiamato l'olocausto dimenticato, perché sono stati uccisi in questa parte dell'olocausto circa 2 milioni di ebrei. Noi pensiamo sempre ai campi di concentramento, ma non sono stati gli unici luoghi in cui ci sono stati questi stermini di massa. Ecco, questo Christopher Brown, vi dico esattamente come si chiama in traduzione: Uomini comuni, polizia tedesca e soluzione finale in Polonia, che in questa intervista sottolinea due aspetti, quelli che ho evidenziato, cioè da una parte l'autocommiserazione tipica di questi criminali nazisti e dall'altra le dinamiche di gruppo e la pressione a conformarsi. Ci sono altri specialisti che affrontano altre particolarità di come sia possibile distribuire la responsabilità e quindi sentirsi meno colpevoli, oppure anche questa frase che mi sembra di questo francese Patrick Dubois, che è un prete ma con varie pubblicazioni sulla Shoah, che dice: il genocidio inizia quando si inizia a classificare le persone. Mi sembra un'affermazione molto forte, molto importante. Avete visto anche già che vengono integrate queste immagini, queste ricostruzioni, queste testimonianze da quattro esperimenti di psicologia sociale abbastanza famoso: l'esperimento di Ash, che mostra la pressione per conformarsi al gruppo, l'esperimento di Stanford, in cui le persone in posizione di potere sviluppano comportamenti o tendono a sviluppare comportamenti sadici, e poi un altro esperimento, l'esperimento di Milgram, in cui si sottolinea come l'impulso ad obbedire agli ordini supera i dubbi sulla loro legittimità, e infine un altro caso invece non psicologico ma un caso reale, il caso di Kitty Genovese, era americana di origine italiana, in cui si dice che più osservatori assistono a un misfatto e meno i singoli si sentono responsabili. Ecco, queste spiegazioni psicologiche tendono a relativizzare il male e ad assolvere i carnefici dalle loro responsabilità, e la pongo come domanda. Naturalmente non ci sono solo in questo filmato, in questo film, le spiegazioni psicologiche, si dà molta importanza naturalmente anche all'influsso della propaganda, perché bisogna pensare a cosa hanno vissuto questi carnefici fino dalla scuola e poi in avanti. E qui allora vorrei ricordare un libro, invece facciamo che invece che presentare lui me presento io anche lui, ricordo un libro importante che ha pubblicato appunto Arnaldo Lohner, pubblicando tre opere di rivolte ai ragazzi, di propaganda per i ragazzi. La più famosa di queste è The Gift Pills, il fungo velenoso, proprio per vedere come venivano avvelenate, possiamo dire così, anche le menti dei ragazzi, per cui per la maggior parte di questi criminali nazisti, soprattutto per i più giovani, il fatto di discriminare, di uccidere gli ebrei era una cosa assolutamente normale. Ecco, qui dopo se vogliamo possiamo dire anche qualcosa sulla propaganda e su uno dei fautori di questa propaganda, che è l'editore di tutti e tre questi libri, Julius Streicher, che era l'editore del giornale Der Stürmer, l'attaccante tradotto, ma non rende bene. Sì, ecco, io con questo finisco questa parte. No, vorrei tornare però un attimo a un aspetto di grande rilievo. L'aspetto delle giustificazioni, tu hai fatto un capitolo di estremo interesse nel libro su Hess, il comandante di Auschwitz, dove sono stati uccisi circa 1.100.000 esseri umani. Hess, come altri criminali nazisti, ha tentato questa sua difesa, questa sua giustificazione, accampando l'ordine dei superiori. A parte la difficoltà di comprendere come possa uno ammazzare 1.100.000 persone solo perché gliel'hanno ordinato i superiori, devo dire che questo tipo di giustificazioni sono false, perché molti di questi criminali in effetti erano feroci, erano degli animali. Io posso dire che ho fatto il processo Seifert contro il carnefice nel lager di Bolzano, che Seifert uccideva i prigionieri del lager senza aver ricevuto alcun ordine. I prigionieri del lager di Bolzano, che era definito lager di transito perché doveva servire a mandare i prigionieri partigiani, ebrei, nei campi di concentramento per essere uccisi, e sono partiti 12 treni dalla stazione di Bolzano che hanno trasportato nelle camere a gas i prigionieri del lager di Bolzano, poi i trasporti sono finiti perché fortunatamente gli americani hanno bombardato la linea ferroviaria del Brennero e i treni non partivano più. Ma comunque Seifert ha dimostrato una ferocia, ha ucciso un bambino, c'è stata la testimonianza di Maria Teresa Scala che è venuta al processo e che io stesso ho interrogato, che è morta un anno fa a 99 anni, una prigioniera del lager di Bolzano, che ha raccontato che Seifert ha ucciso un ragazzo di 18 anni ficcandogli le dita negli occhi. Questa era la ferocia, c'era il gusto della distruzione dell'uomo alla radice di molti aspetti della criminalità nazista. Quindi non si tratta soltanto degli ordini, e quindi c'è un solo responsabile, Adolf Hitler, e gli altri sono tutti degli uomini fedeli allo Stato e fedeli all'ordine delle autorità. Questo è un aspetto molto importante da discutere. C'è stata ferocia, c'è stata volontà distruttiva, c'è stata volontà di uccidere. E qui c'è anche un meccanismo interessante. Vorrei che tu ci parlassi dei processi, perché tu ci hai raccontato nel tuo libro di tre processi che ci sono stati contro, diciamo, piccoli criminali rispetto a esse altri grandi criminali. Tre processi in cui si è arrivati all'accertamento di responsabilità di criminali che uccidevano gli ebrei, ma si è passati addirittura da una fase in cui prima si colpiva, si condannava e chi uccideva, e poi si è cominciato a colpire e condannare chi ha collaborato, chi ha partecipato. In Germania il tribunale di Lüneburg ha condannato un membro della truppa di controllo di Auschwitz che non è dimostrato avesse fatto niente, apriva la porta per far entrare quelli da mettere nella camera a gas, eppure è stato condannato perché finalmente c'è stata questa variazione. Non possiamo processare e uccidere solo quelli che hanno massacrato gli ebrei o i partigiani, dobbiamo comunque colpire tutti quelli che hanno collaborato. E questi tre processi di cui tu ci parli diffusamente sono molto importanti, perché questi rispetto a esso sono criminali minori, non hanno ammazzato 1 milione di persone. E questo mi pare anche, questo in Germania c'è stato un risveglio proprio, si comincia a processare anche gente di poco conto sotto il profilo della capacità criminale, ma gente che ha collaborato, gente che ha partecipato, è vero? Sì, questo è un aspetto sicuramente importante. Dunque, per quanto riguarda Höss, anche lui, come ha fatto soprattutto Eichmann dopo, ma direi che Eichmann ha imparato da Höss, è stato il primo Höss a utilizzare questa strategia di dirsi solo una rotellina in un ingranaggio molto più grande di lui. Höss, l'abbiamo detto prima, ha scritto queste sue memorie e anche altri scritti durante la prigionia. Lui ha partecipato al processo di Norimberga solo come testimone, non come imputato, e poi è stato invece stato dato ai polacchi che gli hanno fatto il processo, quindi è stato sia a Varsavia che a Cracovia, dove è stato poi condannato a morte. Durante questa prigionia ha scritto questa autobiografia a cui è stato dato molto credito, l'ho già detto, ma in cui mette in atto diverse strategie. Non è l'unica questa di dire che è stato solo una rotellina nell'ingranaggio. Ad esempio comincia a diffamare prima, a prendere le distanze, diciamo, prima dai superiori, ma poi anche da tutti i suoi sottomessi che non sono stati, che l'hanno capito male, che non sono stati in grado di svolgere quello che lui pensava, perché sennò i prigionieri sarebbero stati sicuramente meglio. Ma poi quello che è più terribile, comincia a diffamare le vittime. È una strategia veramente infame, e qui faccio una piccola parentesi, scusate, leggendo queste testimonianze dei carnefici, leggere queste testimonianze dei carnefici è molto più duro che leggere le testimonianze delle vittime. Già leggere le testimonianze delle vittime, Primo Levi e tanti altri, è un'operazione che richiede veramente molto coraggio, forza, resistenza. Però scatta un processo di identificazione, pur sapendo che non possiamo mai identificarci fino in fondo, e sappiamo che siamo dalla parte giusta. Leggere le testimonianze dei carnefici, quando per caso scatta il processo di identificazione, avviene un terribile cortocircuito, naturalmente. Non riusciamo, poi arriviamo veramente al limite delle nostre capacità di comprensione. Per cui ecco, anche leggere e rileggere più volte questa testimonianza di Hus non è stato facile. Ma per dire solo ancora questo esempio, quello che lui fa in tutta quest'opera è portare avanti una diffamazione delle vittime. Quando parla dei russi, dice che sono diventati delle bestie perché si mangiavano tra di loro, a parte che non ci sono testimonianze sicure su questa cosa, ma poi bisognerebbe chiedersi chi li ha messi in quelle circostanze, chi è il vero autore che ha spinto uomini eventualmente a compiere il peggiore dei crimini. Quando parla dei polacchi è la stessa cosa, quando parla, ci sono un intero capitolo sulle donne, c'è la parte di Birkenau, il campo femminile, dice che le capo delle donne, eccetera, erano le peggiori di tutti i campi di concentramento. E poi soprattutto nei confronti degli ebrei, naturalmente. In alcuni casi non se ne rende neanche conto, perché l'antisemitismo di fondo di Hus è così forte che, pur cercando di autogiustificarsi, gli scappano continuamente dei pregiudizi antisemiti, ma poi soprattutto quando parla del Sonderkommando. Il Sonderkommando era quel gruppo di ebrei che erano predisposti a tirar fuori i cadaveri, a prima portare e far entrare gli ebrei destinati ai forni crematori, alle camere a gas, nelle camere a gas, e poi dopo l'uccisione a tirarli fuori e a portarli nei forni crematori. Questi Sonderkommando venivano poi liquidati ogni mese più o meno, a distanza di poco tempo, ed erano assolutamente separati dal resto del campo. C'è una testimonianza in Italia fondamentale e terribile, che è quella di Shlomo Venezia, Sonderkommando, in cui lui da ragazzino quasi è stato in un Sonderkommando, si è salvato perché c'è stata poco dopo la liberazione del campo, solo per questo, e che questa è un'esperienza che lui non ha raccontato nemmeno ai propri figli fino ad età avanzata. Ha cominciato a scriverne quando ormai aveva quasi 70 anni, e poi facendo testimonianza nelle scuole, eccetera. Ecco, quello che dice, che racconta Hus del Sonderkommando, è la diffamazione pura. Dice che fumavano mentre estraevano i cadaveri, che non smettevano di mangiare, eccetera. Degli storici hanno provato che non era concretamente possibile, perché fumare dentro una camera a gas dove prima era stato utilizzato il Ciclone B rischiava veramente di far esplodere tutto, e in più anche mangiare era poco sano in quelle condizioni. Quindi c'è proprio una volontà diffamatoria. Sembra quasi, leggendo queste pagine, che è quasi un capitolo, quindi sono diverse pagine, che i veri perpetratori fossero gli ebrei stessi. E ecco, queste sono le strategie appunto di autodifesa di un criminale nazista e poi anche di altri. Quello che, a cui accennava Arnaldo, sull'importanza delle aule di tribunale anche per darci un'immagine dei criminali nazisti. In realtà questo saggio è stato scritto da Anna Veronica Pobbe, c'è lì anche un suo libro che è appena comparso sul primo caso che tratta qui, che è quello di Hans Bibow, che era lo Amtsleiter, il direttore di Litzmannstadt, col nome tedesco Łódź, in Polonia, e poi di altri tre casi, un processo che è avvenuto subito dopo la guerra, poi uno nel 61 invece di un partecipante sempre di queste Einsatzgruppen di Otto Bratfisch, e infine quello che forse, di cui forse qualcuno ha sentito parlare, di John Demjanjuk, un caso per alcuni versi parallelo a quello di Seifert, perché anche lui era scappato, ma molto più complesso, perché era scappato in Canada, poi era stato portato in Europa, è stato processato persino in Israele, poi però è stata annullata la condanna, è ritornato in Canada. Insomma, un caso molto particolare. Quello che è importante è vedere come in questi tre diversi momenti sia attuale una visione differente del perpetratore nazista. Nel primo caso, quello di Bibow, abbiamo quella che Pope chiama la narrazione norimberga, cioè il criminale era ancora disturbato di mente, un mostro, un criminale vero e proprio, e quindi ciò serviva anche a tenerlo in un certo senso a distanza da noi, però bisognava sempre dimostrare che aveva ucciso, diciamo, direttamente con le proprie mani degli internati o delle vittime. Negli anni 60, poi, con il caso di Bratfisch, subentra una nuova visione del carnefice, che è influenzata, se vogliamo, è contemporanea, influenzata dalla visione di Hannah Arendt, quella del criminale da scrivania, Schreibtischtäter, cioè di colui che non si sporca le mani e che in fondo obbedisce solo agli ordini, per cui anche la legislazione, se non veniva dimostrato almeno un caso di omicidio concreto, poteva condannare solo per complicità in omicidio. E quindi le pene erano di molto molto minori, scusate. E infatti anche in questo caso poi il tribunale crede in fondo alla narrazione dell'imputato, che esce con una pena molto ridotta di 7 anni di lavori forzati. Nel 2009 la situazione è cambiata, perché si può essere condannati anche solo per aver agito all'interno di un'organizzazione, come accennava appunto Arnaldo, all'interno di un'organizzazione finalizzata all'uccisione, allo sterminio. Quindi già il fatto di aver lavorato in un campo di concentramento può portare a una condanna. Questo ha reso possibile appunto tanti processi che in passato, c'è stato un cambiamento circa una decina d'anni fa all'interno della legislatura tedesca, per cui certi casi che prima non potevano essere processati, sono stati poi processati, oltre al caso ricordato già da Arnaldo, c'è anche quello di una donna che invece teneva lo schedario dei morti, delle persone uccise nelle camere a gas, e poi spediva alle famiglie le lettere, naturalmente con motivazioni false. Ecco, lei era al corrente evidentemente delle uccisioni, se arrivava ad Auschwitz fino a il massimo penso sia stato 12.000 morti al giorno, perché c'erano 4 camere a gas in funzione con l'ultima azione dove sono stati uccisi gli ungheresi. Ecco, quindi, e anche questa donna ormai oltre i 90 anni è stata poi condannata solo grazie a un cambiamento appunto della legislazione. Posso volevo io sono prendi stato il microfono. Sì. Io sono stato un lettore interessato del tuo libro, molto interessato. È una cosa che mi ha colpito molto, per questo vorrei sentire qualcosa da te. È il fatto che tu ricordi e citi dei romanzi, tra cui un romanzo di un certo Uwe Johnson di 1800 pagine, che è una storia gigantesca della Germania e dei crimini nazisti, ma parla anche della discriminazione dei neri negli Stati Uniti. Cioè, questa narrativa mi ha colpito molto, perché in genere io mi sono sempre interessato, ho visto le opere degli storici, quelli che fanno le ricostruzioni, che si documentano e poi ci scrivono quello che succedeva. No, qui ci sono quelli che scrivono racconti e romanzi. Questo romanzo di 1800 pagine è un romanzo inventato ovviamente, che però attiene allo sterminio nazista, attiene, e questo è un fatto molto particolare, per questo mi piacerebbe, tu l'hai citato diffusamente. Sì, anche qui, vediamo, sì. Anche qui naturalmente sì, non l'ho citato io ho invitato lo studioso che se ne è occupato, che è il mio collega poi di letteratura tedesca a Milano, Franz Haas, che è un esperto di Uwe Johnson, di quest'opera mastodontica, un monstro da un certo punto di vista. Sono 4 volumi, penso siano anche più di 1800 pagine. Jahrestag si chiama, perché racconta proprio 365 giorni. Ogni giorno inizia di questa Gesine Crespal, è il nome naturalmente di invenzione, che vive a New York e tutti i giorni legge il New York Times e cita da questo giornale, e poi ricorda, quindi è su anche vari piani temporali, quindi da una parte ricorda quello che riporta il New York Times, per cui i processi contro Ilse Koch, la famosa bestia di Buchenwald, e le riporta appunto quanto detto nel giornale e le proprie riflessioni, oppure anche altri criminali nazisti dell'epoca. Dall'altra invece ricorda quello che lei stessa da bambina aveva vissuto in Pomerania, Pommern, dove è situato il paese da cui proviene, e le esperienze poi in quel piccolo paese, con le rappresaglie naziste che ci sono state, il fatto che anche il padre già allora era stato incarcerato, la madre si era invece suicidata, quindi un'esperienza molto tragica. Ma appunto ci sono poi all'interno, questo è interessante vedere come nella letteratura poi la figura anche del perpetratore possa venire illuminata da diversi punti di vista, perché poi in queste a queste riflessioni se ne abbinano anche altre che riguardano invece sia il presente a New York che anche i ricordi passati o comunque l'immediato dopoguerra. Nel presente di New York lei fa i conti naturalmente con il razzismo, con l'antisemitismo che è presente ancora nella New York del dopoguerra, degli anni 60 in cui vive, ma poi addirittura anche con il razzismo di una amica che era sfuggita ai campi di concentramento, quindi ebrea, sfuggita ai campi di concentramento, che pure fa cioè, delle affermazioni chiaramente razziste nei confronti dei negri, quindi nemmeno gli ebrei, nemmeno quando sono scappati dai campi, sfuggiti ai campi o fuggiti o sopravvissuti ai campi di concentramento, hanno la patente, diciamo, di essere superiori al razzismo. Poi invece ricorda anche l'esperienza del padre che alla fine della guerra, dopo essere stato vittima dei nazisti, anche di persecuzioni, ma non era comunque ebreo, finisce invece nei gulag sovietici. E per cui ecco, ci sono diversi piani. L'autore è sempre molto attento a non creare delle similitudini troppo strette, perché ovviamente sarebbe in fondo banale, superficiale, mettere sullo stesso piano i campi di concentramento e i gulag sovietici, quello che è avvenuto dopo la guerra con quello che è avvenuto invece durante il nazismo, il nazifascismo. Ecco, per cui è naturalmente, ci sono anche tante altre esperienze in questo romanzo, l'aspetto del nazismo e dei perpetratori nazisti non è centrale, però lo stesso è interessante vedere quali sono, così diciamo, i motivi ricorrenti di queste rappresentazioni del criminale nazista. E come lo sono nei molti film che vediamo anche adesso, anche ricorrenti, anche sempre nuovi, ci sono adesso anche su Skype, se ne possono vedere, sia su Eichmann per dire, oppure sul, non so, su altri criminali nazisti proprio molto recenti degli ultimi anni. Per restare nel campo creativo, c'è un capitolo del tuo libro, Federico Prina, l'enigma della SOA in Vaterland di Robert Harris. Questo Robert Harris ha scritto un libro in cui racconta, per questo dico restare nel campo creativo, che Hitler ha vinto la guerra. Questo libro è ambientato nel 1964. Hitler ha vinto la guerra e si sta organizzando per preparare la soluzione finale, cerca contatti internazionali. Ecco, questa è una cosa anche che mi ha colpito molto. Questo scrive un libro e ci dice Hitler ha vinto nel 64, come c'era il Terzo Reich, aveva finalmente costituito il Terzo Reich e si preparava al proseguimento della sua azione antisemita. E questo non è una cosa singolare, scusa. Ecco, benissimo, sì. Dunque, in questo libro, Fatherland, che è un libro, si chiama distopico o ucronico, nel senso che è fuori dal tempo, presenta una realtà che non esiste, un cosa sarebbe successo se. Questo, diciamo, è il fondamento di questi tipi di romanzo. Cosa sarebbe successo se Hitler avesse vinto la guerra? E quindi c'è questo regno che va praticamente dal confine con la Francia, che non rientra però nel Terzo Reich, fino agli Urali, quindi ben oltre Mosca. Ma il fondamento di questo romanzo è quello che appunto Hitler si sta preparando per un incontro, per accogliere nel suo Reich Kennedy nel 64, e invece vuol far sparire tutte le tracce della Shoah. E c'è un poliziotto, un investigatore che si chiama Xavier March, il quale in realtà era stato un convinto nazista anche lui, all'inizio sa poco dell'Olocausto, e poi indagando sulla morte di tre personaggi che sono non a caso tre di quelli che vi ho presentato io all'inizio, cioè tre dei partecipanti all'incontro del Wannsee, cioè Josef Müller, Wilhelm Stuckart e Martin Luther, piano piano ricostruisce assieme, poi coadiuvato da una giornalista americana, ricostruisce cosa è avvenuto dall'Olocausto, prima le sparizioni degli ebrei e poi anche visitando un lager trova anche le testimonianze dei forni crematori. Quindi ecco qui in questa idea di fantasia però vediamo come si può trattare anche un tema molto delicato come la Shoah anche da un punto di vista assolutamente fantastico. Se posso aggiungere una cosa, io consiglierei anche un altro romanzo importante pubblicato in Italia già nel 71-72, che è quello di Edgar Hilsenrath, Il nazista e il barbiere. Ho visto che qualche giorno fa, forse una settimana fa, non so perché, c'era una presentazione, ma senza spiegazione, anche sull'Alto Adige. In realtà io a questo romanzo ho dedicato un capitolo di un altro mio libro che ho pubblicato nel 19, che si chiama Ladri d'identità, ed è... Adesso non voglio raccontarvi tutta la storia perché se vi capita di leggere il romanzo è sicuramente molto interessante, è un romanzo anche difficile da tradurre in italiano perché c'è una creatività linguistica quasi incredibile, e questo racconta comunque la storia di un criminale nazista che finita la guerra si trasforma in un ebreo. Siccome ha già i tratti dell'ebreo ed era sempre stato scambiato con l'ebreo, mentre il suo amico ebreo con cui aveva condiviso l'infanzia, Itzik Finkelstein, ha i tratti tipici secondo i pregiudizi della razza dell'ariano, alto, biondo, con gli occhi azzurri, eccetera, ecco, si trasforma lui dopo la guerra nell'amico Itzik Finkelstein, cambia nome, si fa tatuare il coso di Auschwitz, il numero di Auschwitz, eccetera, eccetera, e finisce addirittura per combattere in Israele per la creazione dello Stato di Israele. Quindi è il paradosso assoluto, però c'è questo continuo cambio di prospettiva perché lui dice esplicitamente: io Schulz, adesso non mi ricordo, non mi viene più il nome, Konrad Schulz mi sembra, alias oppure Emals oppure Früher Itzik Finkelstein, no, io Itzik Finkelstein, il contrario dice, precedentemente invece Schulz, criminale nazista. Per cui ecco, qui ci sono vari strumenti che io ho cercato di analizzare, della parodia, della satira, che cerca di smantellare poi soprattutto i pregiudizi, pregiudizi naturalmente antisemiti, ma in un capitolo importante anche quelli filosemiti. Quando lui si trova a Berlino dopo la fine della guerra e ormai si è trasformato in un ebreo, tutti gli aprono le porte, gli fanno i complimenti, eccetera, eccetera. E qui c'è una forte satira appunto del filosemitismo falso, naturalmente, che dominava la Germania dell'immediato dopoguerra, dettato dai sensi di colpa, che è altrettanto, dice, pericoloso dell'antisemitismo, perché in fondo basta un niente per cambiare di segno. Già il fatto, ecco qui direi di riprendere quella frase che avevo citato da Patrick Debois, che quando si inizia a classificare le persone siamo già al primo passo del genocidio. Ecco, per cui le persone sono persone, non sono ebrei né in senso positivo né in senso negativo. Ecco, qui ci sono tante possibilità di rappresentare i criminali nazisti o, c'è come li chiamo io, i perpetratori. Beh, c'è Charlie Chaplin, il grande dittatore nel 1940, Chaplin ha fatto la parodia di Hitler praticamente. Il grande dittatore nel 1940, certo che è una parodia geniale da un certo punto di vista, che però il problema delle parodie è quello sempre che rischiano perlomeno la banalizzazione. Certo, nel 40 Chaplin non sapeva nulla della persecuzione, sì, della persecuzione degli ebrei, sì, ma non certo delle camere a gas, dello sterminio, eccetera, per cui poteva anche permettersi di parodiare lo stesso anche Brecht e tanti altri. Quindi nella prima fase le parodie esistevano appunto nella fase anche di ascesa di Hitler, esistevano anche altre diverse parodie. Dopo il 45 c'è una fase in cui le parodie, quando si venne a conoscenza delle camere a gas e dello sterminio, fino almeno alla metà degli anni 60 le parodie scompaiono, perché ovviamente è troppo grande, troppo traumatico l'impatto che hanno queste conoscenze per poterne ridere. Da lì in avanti però poi ricominciano a diverse ondate le parodie, alcune più riuscite, alcune meno riuscite, anche al cinema. Adesso c'è stato un romanzo recente che ha avuto grande successo, si intitola Ea Sfida da, stavo guardando perché non mi ricordo il titolo in italiano, È tornato se non sbaglio, da cui è stato fatto anche un film. Secondo me, nonostante il successo che ha avuto, un libro di scarso significato, una parodia diciamo così non proprio riuscita, però né nel film ma forse ancora meno nel libro. Ecco, questo per quanto riguarda le parodie, che adesso ci sono su Twitter, c'è un Twitler invece che Hitler, poi ci sono i vari meme, come li chiamiamo noi. La rete è piena, se voi mettete meme Hitler ne escono veramente a migliaia. Molti di questi si riferiscono a delle scene del famoso film Der Untergang, La caduta. C'è quella scena appunto abbastanza famosa dove Bruno Ganz interpreta Hitler e in cui dà in escandescenza, ecco, quella parodia, cioè scusate, quella scena è stata sottotitolata nei modi più diversi, in cui sta parlando di calcio oppure sta parlando di avvenimenti e lo si vede con tutto l'entusiasmo, non vengono tradotte, viene lasciato l'originale in tedesco pensando che la minoranza delle persone capisce cosa sta dicendo veramente Hitler, e poi vengono messi i sottotitoli. Ecco, se lo chiamate, si chiama Downfall meme, lo mettete in internet e ne trovate veramente tantissime. Questo è uno degli esempi delle parodie, ma c'è un libro di cui parla anche questo saggio di Alessandra Goggia alla fine, invece, in cui è stato scritto anche Il piccolo Führer, una parodia del Piccolo Principe, in cui poi si confronta con la volpe della propaganda. Ecco, sono sempre degli argomenti difficili da trattare, ma è un modo anche questo. In fondo le parodie, così almeno il risultato di questo saggio sulle parodie, le satire di Hitler, è che analizzando proprio così l'andamento, la frequenza delle parodie e poi invece del ritorno del mito di Hitler, c'è una certa corrispondenza. Quindi la parodia risponde in realtà sempre a un bisogno di demitizzazione. Quindi ogni volta che ritorna il mito di Hitler alla fine degli anni 60, poi negli anni 80, adesso all'inizio del nuovo secolo, del nuovo millennio, rispondono anche queste parodie. La parodia ha bisogno naturalmente di una conoscenza dell'immagine del perpetratore, del criminale, di Hitler, perché solo su questa conoscenza, sulla base di questa conoscenza, si può capire anche la parodia. Noi lo vediamo sempre, se una delle cose più difficili, se avete fatto l'esperienza, è vedere ad esempio il cabaret in un paese straniero. Non è solo il problema linguistico, il problema linguistico, magari conoscete la lingua anche abbastanza, è che vi mancano i riferimenti quotidiani su cui si basa la parodia, la satira, eccetera. E vi giuro che delle volte capita anche a me, che seguo abbastanza sia l'Austria che la Germania, però diciamo così che forse un pochino di meno, ne ho abbastanza della politica italiana, non riesco sempre a seguire anche quella nel dettaglio, quella austriaca e tedesca, però. E delle volte quando guardo, mi capita di guardare cabaret sul programmi tedeschi e austriaci, che ce n'è tra l'altro molto, ma molto di più che su quello italiano. In Italia ormai ne è rimasto molto, molto poco di cabaret e di satira, forse perché c'è la satira già nelle cose serie della politica italiana, non c'è neanche bisogno di fare poi della satira a teatro, in televisione. Ecco, vabbè, a parte questa osservazione, lì ci rendiamo conto appunto di quanto sia importante conoscere il contesto a cui si riferisce la satira, altrimenti, anche se capiamo dal punto di vista linguistico il 100%, ma non riusciamo a cogliere i riferimenti. Per cui l'analisi delle rappresentazioni satiriche, a mio avviso, è molto importante, perché ci dice qual era l'immagine che aveva Hitler, ma non solo Hitler, anche altri criminali nazisti di cui si fa satira, maggiore naturalmente Hitler, in un certo periodo. Cioè al rovescio riusciamo a capire esattamente qual era appunto la visione, l'immaginario collettivo di questi criminali. Bene, basta così. Vuoi che andiamo, vabbè, che facciamo, chiudiamo? Sì, ma sì, tu, io direi di sì, se vogliamo. Vabbè, abbiamo dato un contributo alla memoria, eh? Adesso se abbiamo qualcuno dato... del pubblico vuole, ha delle domande, come vuole. Le domande vanno fatte all'autore, casomai, eh? Anche tra di voi vi fate domande, vi date le risposte. Comunque teniamo duro, eh? Teniamo sì, duro. Mi dica. Libri sul revisionismo, no, non mi serve. Bello beta per gli altri anche. Sì. Libri sul revisionismo. Sì, sì. Ho paura di ne sì, sì, questi tempi che corrono. Posso? Sì, posso darglielo io, te lo prego. Io dopo posso dare. Posso Franca, quel pazzo di americano anche. Franca non si sente. Non si sente. No, così sì, così sì, ecco, perfetto. Allora, libri sul revisionismo ne stanno nascendo o no? Aspetta. Libri libri sul revisionismo nel senso. Sì, poi bisogna distinguere, non è sempre facile, tra revisionismo, di cui siamo testimoni anche negli ultimi giorni, tra l'altro, e il negazionismo. Il negazionismo è ancora, diciamo, un gradino ulteriore del revisionismo, quelli che negano proprio l'esistenza delle camere a gas, eccetera, cioè libri di storici, di semiologi, eccetera, sul revisionismo ce ne sono e sono importanti. Uno importante è della Pisanti, scritto con la Y finale, di cui adesso non ricordo il titolo, ma se vuole glielo dico subito. Valentina Pisanti, ecco, sì, l'irritante questione delle camere a gas, logica del negazionismo. Mi pare che c'è, forse l'ho dato alla biblioteca. Sì, penso che sia tra i libri che hai donato. È del 98. È del 98, lei è un'allieva di Umberto Eco a Bologna, insegna a Bergamo. E ne ha scritti poi ancora altri. Questo qui era il primo, poi ha scritto diverse cose sul revisionismo e sul negazionismo. Io penso che ce ne siano, adesso dal punto di vista letterario non ne conosco, ad essere sincero, in cui sia centrale questo aspetto del negazionismo del revisionismo. Però c'è un film importante che si intitola La verità negata, non so se l'ha mai sentito, che è sulla storia di questa studiosa dell'Olocausto inglese, no, lei è americana e viene... il processo si fa a Londra, è contro Irving, il famoso negazionista. Lei lo aveva definito un negazionista, lui tenta un processo e secondo la legge inglese è chi aveva, diciamo così, aveva espresso questo giudizio, che deve dimostrare la validità della propria tesi. Quindi lei, adesso non aspettate che non mi viene il nome in questo momento, se qualcuno mi aiuta, ho letto già altri suoi libri. Lei ha scritto anche un libro importante su Eichmann, tra l'altro, quindi lo posso trovare qui, ve lo dico subito, scusate che sto... Allora... Lipstadt, esatto, Deborah Lipstadt, che ha scritto anche Il processo Eichmann, e lei accetta questa sfida e va a Londra, si sottopone a questo processo... A dirla, deve dimostrare, paradossale, è lei che deve dimostrare l'esistenza delle camere a gas. E questo film, a mio avviso, è molto importante. Avevo scritto anche una piccola recensione anche sull'Alto Adige qualche anno fa quando era uscito. È interessante per un aspetto, perché storia reale anche del libro che poi la Lipstadt ha scritto su questo processo, che poi ha vinto e ha mandato in rovina giustamente questo negazionista, che ha perso tutto quello che aveva, tutto, aveva raccolto molte ricchezze e però già dal giorno dopo ha cominciato a fare tour in America ripetendo le stesse teorie negazioniste. Ecco, quello che è importante è che nella strategia processuale la Lipstadt decide di non far ascoltare i testimoni, che sembra un controsenso. I testimoni infatti ci rimangono molto male nel film, lo si vede nel libro suo a meno peso che nel film, perché decide, e di dimostrare invece attraverso i documenti storici. Lei decide, assume proprio, oltre che degli avvocati, soprattutto si affida degli storici che vanno, leggono tutta la produzione di Irving e mostrando proprio le falsità storiche in base ai documenti. Lei decide di non far ascoltare al processo i testimoni, perché è sicura che un conoscitore comunque dell'Olocausto come Irwin sarebbe riuscito sicuramente a metterli in crisi. Bastava, perché i negazionisti hanno tutti in fondo un unico schema agire, cioè dimostrano che un'affermazione di un testimone non corrisponde alla verità per mettere in discussione tutto quello che hanno detto. Il meccanismo, se uno va a vedere proprio come agiscono, è sempre lo stesso. Per cui è chiaro che lei avrebbe esposto i testimoni, diciamo così, a un attacco e alle smentite a cui non sarebbero stati in grado di rispondere. Quindi rinuncia all'utilizzo dei testimoni e si basa sul lavoro degli storici e vince il processo. Bene. Grazie, volevo chiedere un suo parere, perché lei quando ha parlato del film Harry Svitada, no? Che sì. Parla del ritorno, della reincarnazione di Hitler ai nostri tempi, c'è stato anche un film su Mussolini, identico ovviamente nella sostanza, anche in italiano, e lei ha usato la parola parodia, no? Però questa parodia molto spesso diventa un'arma a doppio taglio. Perché se da una parte, come dire, ridicolizza e tenta di fare diventare sciocca la questione, di ridicolizzare il cattivo di turno, diciamo, molto spesso lo fa diventare anche banale agli occhi della massa, che molto spesso è ignorante perché non conosce, perché non ha studiato, e abbassa, cioè è un'arma da buttare, può togliere le difese anche a un pubblico che dovrebbe essere, vivere in un paese democratico dovrebbe essere consapevole dei pericoli che corre, no? Quindi la parodia, come dire, difatti nel film, almeno io quello ho visto bene, quello con Mussolini, alla fine diventa altro che parodia, cioè della serie è agghiacciante il finale, dove si capisce che la gente è arrivata talmente tanto a banalizzare la cosa che anzi ha bisogno sempre di questi leader che si proiettano forti, perché qua ci sarebbe da parlare dietro di psicologia sulle ferite narcisistiche sia di chi si propone come guida che di poi della gente che li segue, no? Cioè, problematiche con i genitori che sono stati, i bambini che sono stati detronizzati e traditi da piccoli, poi covano un odio verso i genitori e cercano, come dire, di trovare un'identità, un'appartenenza a un gruppo, eccetera, no? E anche qua un'altra appunto che volevo fare alle varie situazioni che sono emerse nel suo libro che è esposto, e c'è da fare un'analisi secondo me approfondita sulla psicologia di questi perpetratori, come li chiama. Ho letto un passaggio che era stato riportato sull'Alto Adige, in cui diceva che loro praticamente cercano poi di farsi volere bene, no? Ma quella è una dissimulazione consapevole, cioè la parte del mostro, diciamo, che rimane dentro è la parte di una persona mal cresciuta, con grandi ferite profonde, che odia e non è collegata con la sua parte emotiva, animica e di empatia, non riconosce il prossimo come un essere umano, ma un animale, no? Cioè, basta uccidere perché bisogna, perché così mi sfogo, così, perché gli altri non hanno diritto di vivere, perché in realtà cosa sta dicendo probabilmente la persona? Odio tutti perché sono stato ferito, io devo morire, gli altri, no? Quindi, ecco, sono un po' due domande che cercano di costruire, ma esatto, una parodia e l'altra narcisismo. Sono due cose diverse. Dunque, sulla prima, quello a cui avevo accennato, c'è il pericolo costante della banalizzazione, e questo è veramente una cosa a cui non si può sfuggire. Appunto, In questo libro è Sfida da di Timo Werner. C'è sicuramente questo processo, anche se in alcuni casi viene in evidenza abbastanza chiaramente il suo antisemitismo, però in fondo noi vogliamo bene a questo personaggio. È quello, tendiamo addirittura ad identificarci, perché dice vabbè, le spara un po' grosse, però in fondo cosa vuoi che sia? Com'è la strategia narrativa? Certo, potrebbe essere una strategia anche per farci riflettere, per a un certo punto metterci in guardia e dire ma scusa, cosa mi sta succedendo? Molto probabilmente la maggior parte dei lettori o degli spettatori del film non fa questo passo e quindi ne esce appunto identificandosi o comunque sminuendo la gravità di quello che ha visto. Cioè è pericoloso farne dei mostri perché dopo ci riesce troppo facile prendere le distanze. Se uno è un mostro, un malato, uno psicopatico, eccetera, noi che ci riteniamo normali siamo, cioè non veniamo così interrogati da questa problematica, e però sminuirlo e banalizzarlo rimane molto, è molto pericoloso. Sulla psicologia, le dico la verità, io non me ne occupo molto, penso che sia importante, ci sono stati questi degli psicologi, soprattutto anche durante i processi di Norimberga, eccetera. Io credo che sia comunque difficile, non si può ridurre semplicemente ai traumi avuti da bambino. Hoess aveva avuto diversi traumi, un padre impossibile che lo aveva tiranneggiato e che poi forse con la morte, sì, non lo aveva nemmeno liberato, altri lo sappiamo. Hitler stesso, certo. Oppure anche Eichmann aveva un rapporto problematico col padre, tutti probabilmente, ma voglio dire, per fortuna non tutti vanno così, ci sono tutti noi, molti di noi hanno avuto rapporti problematici magari con uno dei genitori, più o meno naturalmente, ma fino a prova contraria non siamo diventati, date anche circostanze diverse naturalmente, no, non vorrei scherzare, però il pericolo anche lì, se dalla parte diciamo della parodia il pericolo è quello della banalizzazione, il pericolo della spiegazione psicologica è quello di arrivare a spiegare a tutto e giustificare. È vero che capire, come diceva sempre Primo Levi, non vuol dire giustificare. Cioè, noi vogliamo capire, ma non giustificare. C'è anche un'infanzia problematica, anche una cosa, non può giustificare una determinata azione, un determinato comportamento. E poi non c'è solo l'elemento individuale. È chiaro che poi alla fine ci vuole anche un contesto che renda possibile tutto questo. Non so se... aspetta, sì, è che c'è ancora una domanda dal generale. Al generale. Buonasera e congratulazioni per la sua opera, molto approfondita e grazie. Fatta veramente bene. E come ho già avuto modo di dirle, io mi sono occupato con il mio gruppo di lavoro investigativo di oltre 400 crimini di guerra commessi in Italia, tra i quali i più eclatanti, Sant'Anna di Stanzema, Marzabotto. Non si sente. Adesso mi sente? Sì, benissimo. Scusate. Allora, mi sono occupato di oltre 400 crimini di guerra commessi in Italia e non solo in Italia. Non scordiamoci di Cefalonia. Vabbè. Le indagini condotte dal mio gruppo di lavoro hanno portato ai procedimenti di fronte alle procure di Verona, La Spezia, Roma, con 57 ergastoli nei confronti di questi criminali, uno dei quali era Seifert di Bolzano, a Bolzano. Questi personaggi avevano un criterio comportamentale, parlo dei criminali, che era pari pari quello che lei ha analizzato, professore. negare, fingere, mistificare, dire che non c'erano, passarsi la parola per annacquare la realtà, mistificarla, negarla e le prove. Non erano dei mostri. Seifert non era un mostro. Togliamoli questa parola mostro del Lager. Lui era un criminale convinto di ciò che faceva, e se lo faceva, non lo faceva motu proprio. Lo faceva perché sapeva di poterlo fare. Sapeva di essere coperto in ciò che faceva. Dai suoi superiori, uno dei quali era il comandante Tito, che io naturalmente sono andato a interrogare, perché lo hanno interrogati tanti di questi criminali e tanti di questi testimoni, che avevano anche testimoni lo stesso comportamento che lei ben a lei analizzato. Ora, questi soggetti naturalmente condannati all'ergastolo, chi abbiamo visto? Seifert, che abbiamo scovato a Vancouver in Canada, il quale si è sempre rifiutato di deporre, sia in Canada che a Santa Maria Capua Vetere, dove è stato recluso, dove è morto. Altri personaggi che sembravano di sopra di ogni sospetto, perché si era ben rifatti la vita dopo il dopoguerra, con complicità, collusioni, o gente che si girava dall'altra parte. Tutto questo ci deve far capire che certi personaggi hanno avuto figli ed hanno nipoti che alle volte non sono d'accordo a ciò che hanno fatto i loro nonni o i loro padri. Altre volte invece ne portano avanti le loro idee e sono pericolosissimi, anche oggi. Non mi dilungo, molto ci sarebbe da dire, ma non mi dilungo perché il tempo è quello che è, e vi ringrazio. Grazie, grazie a lei. No, qui non c'è da dare una risposta, c'è solo da fare complimenti. Lui si occupa dei criminali veri, io solo di quelli letterari. Esatto. È una cosa un po' diversa. Apprezzabilissimo. Sì, certo, certo. Dico di complimento con lei. Va bene, grazie, grazie. E io mi complimento con lei, così siamo padre. Grazie mille. Ecco, no, c'è ancora qualcuno che vuole dire, mi dispiace. Io volevo dare, sì, a una signora uno dei tuoi libri, lo posso fare? No, te lo regalo io, okay. Daglielo pure. Cosa voleva dire? Volevo solo chiedere una cosa un po' a margine del suo intervento, ovvero, sì, che cosa ha portato gli ebrei a essere sembrerebbe quasi il popolo eletto a tanta persecuzione, cioè da essere oggetto di tanta persecuzione, come dire, nazisti e russi sono nemici, però sono d'accordo sul perseguire gli ebrei, tutti e due. Cioè, mi stavo chiedendo se era semplicemente il fatto di essere talmente ben sparpagliati, distribuiti, o da trovarsi a essere, come dire, magari un altro popolo è localizzato e allora è oggetto solo di attacchi solo locali, mentre loro si trovano un po' non riuscivo a capire da che cosa originava questo fatto di essere in tempi così lunghi sempre oggetto di Ma guardi, se posso, non sono l'esperto, non posso darle una risposta definitiva. Direi che l'antisemitismo è vecchio quanto gli ebrei, cioè almeno dalla diaspora, dal 70 dopo Cristo, inizia, quando gli ebrei cominciano a diffondersi in tutto il mondo. Esiste, prego. Il faraone. Sì, anche già, beh, già prima allora, sì. L'antisemitismo è molto diffuso. Ma poi io direi che molto spesso l'antisemitismo, cioè l'ebreo è anche solo il simbolo dell'altro, molto spesso diventa, non è. Quando serve un simbolo contro cui scagliarsi, l'ebreo era sempre a disposizione, però era diffuso anche nell'Ottocento. Nel Settecento c'è stata una rinascita dell'ebraismo, almeno in Germania, proprio con Moses Mendelssohn, eccetera, che era stata molto forte. L'antisemitismo, diciamolo così, era molto più forte quando, prima del nazismo, in paesi come l'Ucraina, come la Polonia, come la Russia, che non la Germania. Nella Germania l'ultimo pogrom, se non sbaglio, era stato a metà dell'Ottocento. In Russia erano all'ordine del giorno. In Polonia ci sono stati anche dopo la fine della guerra. È finita la guerra e qualche mese dopo c'erano le prime uccisioni degli ebrei. Quindi quello che sorprende di più, io posso dirlo così come germanista, cioè che mi occupa di letteratura e cultura tedesca, è il fatto come la Germania, che era da un certo punto di vista, dal punto di vista letterario, filosofico, la nazione, diciamo, che aveva raggiunto i gradi più alti dello spirito nella musica, e che in cui l'ebraismo era più diffuso, la cultura tedesca senza l'apporto degli ebrei non, cioè, verrebbe a mancare una parte significativa. Lei pensi nella musica Mendelssohn, Bartholdy, pensi Freud, no? La filosofia da Moses Mendelssohn, e poi tutto nella letteratura, nella cultura, eccetera. I direttori d'orchestra, esatto, che proteggevano a loro scapito la propria orchestra per dire non toccatemi. Ma perché il meglio andrebbe perso. Erano tanti che erano assimilati, voleva dire che non riconoscevano neanche più il loro essere ebrei. Ci sono stati tanti, ci sono diverse testimonianze. Una di queste che ricordo soprattutto è Jeanne Amery, che poi è un nome finto perché in realtà è una. Sì, e il quale scrive, che era assolutamente laico, cioè non credente, che Hitler ne ha fatto un ebreo. Cioè lui prima delle leggi razziali non dava nessuna importanza al fatto di essere ebreo. E questo per tanti, cioè che non erano all'interno della comunità, eccetera. Quindi il vero paradosso è perché la Germania, come la Germania, la Francia era antisemita, almeno forse più della Germania, perché proprio in Germania l'antisemitismo abbia trovato questo esito, diciamo proprio di omicidio di massa, ecco, e non in altri paesi. I pogrom, le distruzioni dei templi, eccetera, ci sono state, le persecuzioni ci sono state in tutti gli altri paesi, però solo la Germania è arrivata a uno sterminio industriale proprio degli ebrei. È questa la vera domanda. Sì, mi stavo invece chiedendo come mai, partendo da posizioni completamente diverse, perché se uno dice vabbè i cattolici, vabbè, allora e giocano su, ma come dire, ci sono mille ragioni, però gli ebrei sono sempre gli ebrei. Una questione di soldi, possiamo dirlo? È una questione di soldi. Non solo, perché la ed essere stati puntati per prelevare le ricchezze finanziarie, per finanziare, diciamo, la politica. Sì, però non è solo quello, perché c'erano anche gli ebrei poveri, gli ebrei dell'est che venivano dagli Stettl erano ebrei poverissimi, quindi c'era una differenza. Per sviluppare queste ricchezze, la categoria che poteva, diciamo, essere. Aspettate una alla volta, perché sennò non vi sentiamo più. Mi piace che ci sia questo entusiasmo. Mi dica, cosa voleva dire? Quando Cristo è stato messo in croce, no? Ma quello sì, quello è uno del... nell'ambito cattolico, ma non c'era solo quello, perché... Certo, gli ebrei, ma questo lo davo per scontato, certo sono stati accusati di deicidio, cioè sono quelli che hanno ucciso, ma era solo una parte quella. Quella era la tradizione, sì. Ma di quei pretesti se ne trovano 1001, se si vuole. Non era solo quello, anche se era un elemento importante, naturalmente. E non era nemmeno solo la ricchezza, perché poi c'erano anche lì, c'era questa idea dei saggi di Sion, il complottismo, non è che lo scopriamo adesso, il complottismo c'era nel Novecento, forse più grande di quello che c'era adesso, era quello che diffondeva proprio questo giornale a cui ho accennato prima, Der Stürmer. C'era questo complotto giudaico, massonico, bolscevico, che poi come si mettono assieme tutte queste cose, giudaismo, bolscevismo, massoneria e capitalismo, perché c'erano anche il capitalismo, stavano tutti assieme. Il bolscevismo e il capitalismo, sì, esatto, venivano messi assieme, ed era questa ideologia, appunto, questo del anche Mussolini ha fatto la stessa cosa, plutocrazia occidentale. Si parlava anche lui di plutocrati, sì, però l'antisemitismo, vabbè, non vogliamo dimenticare che anche lui ha poi approvato, accettato, introdotto le leggi razziali nel 38. Però era meno forte l'antisemitismo nel fascismo. Ricordiamo che ci sono stati sindaci fascisti ebrei. Il sindaco di Ferrara era fascista ed ebreo durante il fascismo. Quindi ci sono vari... non vogliamo sminuire così le responsabilità anche del fascismo, però sicuramente è stato diverso dal nazismo sotto questo aspetto. Beh, va bene, sì, adesso li lasciamo andare a casa, se no. No, ma non è solo quello, volevo dire, comunque è stata una bella discussione, fa piacere insomma che le nostre iniziative portino a queste discussioni, no? Sono d'accordo. Ringraziamo i nostri due ospiti per la loro presenza.